ciao a tutte. Ciao, senti, noi ti abbiamo chiamato per farci raccontare una storia che voi state seguendo ora da un po' di tempo, quella di Adama, che è rinchiusa dal 26 agosto in un CIE dopo aver denunciato una violenza da parte del suo ex compagno. Se ti va un po' di raccontarci la storia e capire anche come ci è finita là dentro, insomma. Certo, sì, anche perché ecco, già questo primo passaggio della denuncia è un po' complesso, nel senso che in realtà lei non ha avuto inizialmente il tempo di fare questa denuncia, cioè lei si è trovata in una situazione di pericolo in cui stava subendo violenza da questo compagno da cui subiva ricatti e soprusi ormai da anni, e si è trovata quindi in questa situazione di emergenza a chiamare i carabinieri, non avendo però nell'immediato la possibilità di denunciare l'uomo, nel senso che Adama parla praticamente solo Wolof. Quindi nel momento in cui i carabinieri sono arrivati, l'hanno trovata senza permesso e l'hanno portata, quindi irregolare, l'hanno portata al CIE. E lei sta lì dal 26 agosto? E lei sta lì dal 26 agosto, esattamente. E chiaramente, voglio dire, quando lei ha chiamato i carabinieri era in condizioni visibilmente era scossa, era provata e aveva delle ferite. Sì, infatti questa è una cosa agghiacciante, nel senso che non hanno neanche chiesto perché avesse chiamato, l'hanno trovata così e l'hanno presa e l'hanno buttata in carcere praticamente. Sì, chiaramente lì poi c'è stato appunto questo problema di comunicazione, però ecco, come poi lei non abbia avuto modo nemmeno una volta arrivata lì di poter comunicare con qualcuno, di poter spiegare la sua situazione, mostra, se ce ne fosse ancora bisogno, insomma, la logica dei centri di identificazione ed espulsione. Sì. Dopodiché, insomma, è partita, se vogliamo, la sua richiesta d'aiuto, ha avuto in qualche modo, ha trovato risposta, e quindi un avvocato ha cominciato a seguirla, e dopodiché noi abbiamo deciso di far uscire la cosa pubblicamente per dare una voce a questa situazione, e abbiamo deciso di farlo in particolare nella giornata del 25 perché crediamo che la situazione di Adama non sia una situazione eccezionale, purtroppo, ma sia una situazione che spesso fa norma e che mostra il problema politico dei centri di identificazione e espulsione legato strettamente al problema della legge Bossi-Fini. E come abbiamo detto, come ci siamo trovati a dire altre volte, questa legge per le donne migranti in particolare è un doppio scotto da pagare, nel senso che non è solamente il legame tra permesso e lavoro che è una violenza in sé e che tutti i migranti, uomini e donne, subiscono, ma si declina nel dover accettare, essere costrette a rispettare condizioni di violenza anche estrema, come in questo caso, e diventa un vero proprio strumento di ricatto in mano agli uomini. Sì, infatti. Per cui senti, ma dopo che lei ha denunciato la violenza che aveva subito, non è cambiato niente praticamente? Non è riuscito a fare, gli avvocati non sono riusciti a fare nulla? Allora, adesso la situazione, in realtà la situazione ha attraversato varie fasi, e noi abbiamo scritto in questi giorni appunto sul nostro sito Adama verso la libertà punto interrogativo, proprio perché è una situazione sospesa, e quello che l'avvocato sta provando a fare è una richiesta di permesso umanitario, e tuttavia questa richiesta è stata poi spostata alla questura di Forlì, per cui per ora la situazione è un po' è precaria, insomma, è un tentativo pretestuoso perché c'è questa tendenza a scaricare altrove il problema. Sì, sì. L'avvocato sta facendo tutto quello che può, naturalmente è una persona con cui il coordinamento migranti di Bologna ha costruito fiducia da anni, e quindi stiamo lavorando insieme a questa cosa, e noi abbiamo cercato in tutti i modi in questi giorni di dare una risonanza pubblica ma anche politica a questa vicenda di Adama, che parlasse però anche della vicenda di molte altre, e soprattutto grazie a Trama di Terre, noi abbiamo portato avanti questa cosa insieme all'associazione Trama di Terre e siamo riuscite anche a dare, insomma, un segno nella giornata del 25. E le visioni sono state tante, oltre le aspettative, quindi questo è sicuramente un dato positivo per noi e per Adama, che negli ultimi giorni, insomma, si è parsa anche più speranzosa, più leggermente più serena per quello che si può in questa situazione. E quello che ci ha colpito sono sicuramente le prese di posizione delle istituzioni, le prese di posizione, insomma, che hanno avuto personaggi anche in vista che hanno sottoscritto l'appello e che pure però paradossalmente devono prendere posizione contro una legge, la legge Bossi-Fini, ma anche la legge sull'identificazione ed espulsione, che pure viene dalla Turco Napolitano. Quindi poi quello che succederà dopo, diciamo, quando Adama sarà libera, è anche un po' una questione delicata, è una questione politica, perché abbiamo avuto appunto prese di posizione da personaggi politici importanti che pure hanno avuto da dire contro leggi che sono tuttora vigenti. E questo, insomma, crea uno scarto non da poco. Sì. E anche per quanto riguarda la presa di posizione della Cancellieri, da un lato, insomma, ci ha stupito che questa storia coinvolgesse anche il ministro degli interni, dall'altro lato, come donna, dire voglio tutta la verità, se Adama dice la verità, allora, è una frase che pure ci ha lasciato. Ti immagino. Parecchio male, nel senso che, come al solito, poi per l'ennesima volta sono le donne a dover trovare la verità delle violenze che hanno subito. Senti, volevo dirti una cosa. Questo che è successo ad Adama è molto molto grave. Chiaramente è la punta dell'iceberg di quello che succede alle donne migranti, esatto, alle donne rinchiuse nei CIE ed anche ad altre soggettività femminili come le Rom, per esempio, no? Certo. Già l'anno scorso, come donne femministe lesbiche contro i CIE, noi avevamo fatto proprio la manifestazione del 25 novembre su questo tema, cioè che non devono esistere donne di serie A e di serie B, perché il trattamento nei riguardi delle donne che hanno subito violenza non può avere due percorsi diversi se sono bianche, italiane, cittadine e chiamiamole così integrate, e invece se sono diverse in senso lato. E a questo già l'anno scorso avevamo richiamato l'attenzione del movimento femminista, perché non ci può essere un trattamento diverso, no? Quando una scende in piazza per gridare per ogni donna stuprata, offesa, siamo tutte parte lesa, questo deve essere vero. Certo, indubbiamente, anche perché poi questo insieme all'associazione Trama di Terre abbiamo cercato di sottolinearlo, quando si parla di violenza si parla di soprattutto se questa violenza è sulle donne, come donne chiaramente le migranti doppiamente, ma anche le donne italiane, le donne tutte sono investite di violenze di vario genere. Noi ne discutevamo assieme proprio a Trama di Terre giorni fa, che dalla violenza istituzionale ma anche a una violenza più sociale, più psicologica, a tutte quelle condizioni che in particolare la donna migrante, se pensiamo a quello che le donne stanno subendo adesso che vengono, per esempio, strappate con i bimbi o le bimbe a carico, certo, o che non possono divorziare perché il loro permesso di soggiorno è per ricongiungimento familiare, quindi legato a quello del marito. Certo. E nello stesso tempo per chi, come tutte le donne italiane e migranti, ha semplicemente paura di denunciare perché non ha la certezza di avere una rete solidale, di trovare, insomma, il giusto sostegno per una situazione. È infatti proprio il nodo della questione. Certo, è importantissimo portare alla ribalta un caso perché diventi emblematico di come si dovrebbe agire, di come ci si dovrebbe rapportare, no? Proprio nel senso che l'attenzione verso la violenza sulle donne deve essere a tutto campo, non può essere limitata, esatto, sì, soltanto a certi settori. Questo, diciamo, per quanto riguarda poi l'appello alle istituzioni, diventa un po' problematico perché tendono sempre a fare distinguo, no? Cioè il problema è di fondo. Esatto, cioè quello che noi abbiamo anche cercato di dire con l'appello, ma anche negli interventi successivi, una storia a molte violenze, l'abbiamo chiamato così proprio per questa ragione. E come ti dicevo prima, se da un lato siamo rimaste sorprese e ovviamente abbiamo ben accolto le più di 800 adesioni che sono arrivate in questi giorni, dall'altro lato c'è da riflettere anche su come costruire poi una questione politica una volta che Adama sarà liberata, perché questa storia segna uno scarto, perché questa storia adesso poi a maggior ragione che tante personalità politiche hanno preso posizione netta, si prendano poi anche la responsabilità di queste posizioni e che si affronti per una volta la questione della Bossi-Fini da un punto di vista delle conseguenze, degli effetti che produce sulla vita di donne e uomini migranti. Beh, penso che il problema non sia, cioè il problema è la Bossi-Fini che ha decretato la clandestinità, che la clandestinità è reato, però penso che il problema sia a monte nella istituzione dei CIE, no? Cioè quando lo Stato si arroga il diritto. Sì, questo è vero, però noi abbiamo sempre cercato di fare un discorso invece che puntasse il dito contro la Bossi-Fini, proprio perché crediamo che in realtà sia quella la legge che poi ha portato alle istituzioni dei CIE, che ha portato a distinguere tra regolare e non regolare, a criminalizzare tutta una serie di situazioni e di individui e donne che si muovono sul territorio, che si trovano ad essere clandestini, che perdono meno il lavoro. Cioè è quella legge che poi tira le fila e che di conseguenza ha portato anche all'istituire i CPT, che poi sono diventati CIE. Beh, no, i CPT sono doppia, nel senso i CPT del 98, i CPT sono del 98, sono fatti con la Turco Napolitano nel 98. Esatto. E quindi sono molto prima. Viene direttamente da lì, quindi ecco, quando ti dicevo prima il problema politico con le istituzioni che si stanno accanendo contro una legge che viene dalla Turco Napolitano, poi è quello, cioè bisognerà riflettere sulle leggi, sulla migrazione per poter risolvere questo problema qui. Cioè, quello che crediamo però, cioè quello che abbiamo sempre tenuto a sottolineare, e che non è solo il CIE la violenza che le donne migranti vivono in Italia, che è sicuramente diciamo la punta massima, ma che la Bossi-Fini fa anche ben altro, insomma, tutto qui. Poi è chiaro che la legge su che ha istituito i CPT ha tutto il suo peso e in modo particolare in questa vicenda. Sì, sì, ma infatti ci troviamo d'accordo. Senti, io direi ti ringrazierei per questo intervento, per la storia di Adama, e direi di tenerci in contatto durante queste settimane, di vedere come va a finire. Speriamo di vederla subito, prestissimo, fuori e libera. Sì, esatto, e poi anche per risentirci magari su quello che succederà dopo.